Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. I funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Buongiorno Manera, buongiorno Veronica, buongiorno Verona. No, Milan, mi ero sbagliato, scusa. Buenos días, funambulos. El señor Igor no quiere ser condenado en España, quiere ser condenado en Italia, porque sabe que acá en España no se escapa. Buenos días. Oh Maria, ultimamente sei diventato uno scandalo. Sei diventato troppo comunista chic. Ciao. Noi capiamo benissimo. Basta Ivo! Basta! Basta! Va bene. Accogliamo tutti, come si suol dire e come si è capito. Sono le 9-8 minuti, benvenuti ai funamboli che tornano. Eccoci qui, Veronica, siamo tornati in diretta. Buongiorno, cos'era successo all'ultimo ascoltatore? Guarda, non voglio neanche provare a capirlo. Comunque, qualcuno è intervenuto per aiutarlo a casa, no? Non lo so. Allora, siamo qui tutti riuniti, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia e da te c'è Chiappini. In questo momento c'è un duo, c'è un Chiappini con Rocchetti in uscita. Ah, va bene, un duo di regia, capite che squadra pesante, che squadra corposa qui ai funamboli. Una squadra fortissima. Diamo subito i numeri, allora se volete chiamarci 800 24 0024, questo è il numero per intervenire in diretta. E ma invece, qualora voleste mandarci un sms o un messaggio WhatsApp, il numero è 349 238 6666. Allora, cari ascoltatori, oggi vogliamo partire tornando su un tema che secondo me stanno un po' sottovalutando tutti, tranne la stampa, che da qualche giorno batte il tasto su questo elemento. Il biotestamento, o le dichiarazioni anticipate, le DAT, come vengono chiamate in acronimo. Perché? Perché la legge è passata, lo sapete, ma da qualche giorno la stampa racconta che i medici cattolici, le strutture cattoliche sono contrarie e vogliono obiettare. Allora, bisogna dire che la legge prevede che cosa? Per sommi capi, che chiunque sia maggiorenne, capace di intendere e volere, può esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. C'è un punto sulla nutrizione e idratazione artificiale che sono considerate delle terapie, quindi rifiutabili. Non c'è un'obiezione di coscienza, anzi il medico è tenuto a rispettare le volontà espresse dal paziente, dunque per questo è esente da responsabilità civile e penale. Però, Veronica, i cattolici dicono: noi non possiamo applicare una legge che va contro i nostri principi. Sì, si è sottovalutato il fatto che ci sarebbe stata un'opposizione questa volta dall'altro lato, quindi il mondo cattolico e tutte quelle strutture ospedaliere ricettive si potessero in qualche modo decidere di rifiutarsi anche loro di applicare la legge, quella che ormai è diventata legge. Ecco, questo è il punto, perché per esempio c'è un'oncologa intervistata proprio sulla stampa dell'Istituto di Tumori di Torino, dice: piuttosto andrò in galera, io non applicherò questa legge. Allora il tema è questo: c'è una legge dello Stato italiano, ma ci sono per esempio moltissime strutture che hanno scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella una lettera. E noi abbiamo qui con noi uno dei rappresentanti più influenti di coloro che hanno firmato questa lettera a dire: questo biotestamento è incostituzionale. Viene da chiedere, non è allora, più che scrivere a Mattarella, la giusta strada quella di ricorrere alla Corte Costituzionale? Certo. È legittimo, insomma, è una richiesta che tutti i cittadini possono fare. Fino a quel momento è una legge dello Stato. Però Veronica, vogliamo partire proprio da qui, tra l'altro da un'altra lettera, per affrontare questo tema. C'è chi sostiene che rifiutare interventi invasivi sia un'offesa a Dio che ci ha donato la vita. La vita è sicuramente il più prezioso dono che Dio ci ha fatto e deve essere sempre ben vissuta e mai sprecata. Però accettare il martirio del corpo della persona malata, quando non c'è nessuna speranza né di guarigione né di miglioramento, può essere percepita come una sfida a Dio. Lui ti chiama con segnali chiarissimi e rispondiamo sfidandolo, come se si fosse più bravi di lui, martoriando il corpo della creatura che sta chiamando, pur sapendo che è un martirio senza sbocchi. Personalmente vivo questi interventi come se fosse un'inutile tortura del condannato a morte prima dell'esecuzione. Come tutti i malati terminali, negli ultimi 100 metri del cammino pregano molto il loro Dio e talvolta sembra che il silenzio diventi voce e ti dica: hai ragione tu. Le offese a me sono altre, tra queste le guerre e le ingiustizie sociali perpetrate a danno dell'umanità. Chi mi vuole bene può combatterle con concrete scelte politiche, sociali, sindacali, scolastiche e di solidarietà. Di fronte a queste parole rimane una grande serenità che ti toglie la voglia di piangere e urlare. Ti resta solo l'angoscia per le persone che ami e che ti amano. Allora, questa lettera, o meglio una parte della lettera che hai citato, è stata resa nota dalla figlia di Michele Gesualdi, che era l'allievo prediletto di Don Milani. Sì. Presidente della fondazione che porta appunto il nome del sacerdote così celebre, ed è stata resa nota da Sandra Gesualdi, figlia di Michele. Buongiorno Sandra, grazie di essere qui con noi. Ciao, buongiorno a voi. Con noi c'è, tra l'altro, Sandra Gesualdi, quindi voglio dire, suo padre Michele di estrazione proprio cattolica, che più cattolica non si può, ecco, e quindi questo è un punto di vista molto interessante. Come il punto di vista interessante è quello di padre Virginio Beber, che è presidente dell'associazione religiosa degli istituti sociosanitari, che comprende 230 strutture in Italia. Padre Virginio Beber, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ed buongiorno. È uno dei firmatari della lettera al presidente della Repubblica Mattarella. Quindi abbiamo due posizioni, dalla stessa estrazione, ma immagino distanti, che vogliono discutere su questo. Intanto, Sandra Gesualdi, perché rendere nota questa lettera e qual è il significato delle parole che abbiamo sentito da Veronica Gentili? Guardi, il significato era quello proprio di indurre coloro che ci governano a fare presto ad ottenere una legge di Stato, perché mio padre si trova in una situazione di, come dice lui, negli ultimi 100 metri della sua vita, negli ultimi 100 passi del suo percorso su questa terra. Vi confermo che è molto cattolico e ci ha donato a tutti noi un modello culturale in questo senso. Però lui dice: io sono minato nel corpo e anche nello spirito dalla SLA, che è una malattia devastante. Lui si sente calato in una colata di cemento e dalla SLA non c'è uscire, cura, chiaro. Non se ne può uscire, per cui io, finché ho volontà e consapevolezza, voglio poter decidere di uscire da questa vita terrena in modo dignitoso. La legge è arrivata. Però sente già che c'è un'ostilità nei confronti di questa legge da parte di del certo mondo, del mondo cattolico, delle strutture cattoliche. Sì, ma immagino, insomma, probabilmente anche noi siamo stati molto sorpresi dalla velocità con cui e dalla forza con cui la lettera di Michele è arrivata anche in Parlamento. Forse probabilmente proprio perché è riuscito a intaccare o comunque a pungolare quel velo o quel mondo cattolico, insomma, e lui ha ribaltato un po' la situazione e molti cattolici si sono posti anche la sua stessa domanda: io sono sul fine vita, sono spacciato, non ci sono più cure, perché la SLA, ripetiamolo, è una malattia incurabile, si sta parlando di malattie che non hanno possibilità di sostentamento terapeutico. Io sono in fine vita, mi sento chiamata alla casa del Signore, come qualcuno più celebre ha detto, e voi mi volete attaccare a una macchina. Quindi lui dice: lasciatemi andare. Questo è il grido. Sandra, le posso chiedere certo. Qual è stata la reazione di suo padre davanti a un mondo cattolico al quale lui chiaramente è molto legato ed è molto vicino, appunto a percepire questa chiusura di fronte a questa tematica, ad una tematica a lui così prossima? Guardi, non c'è stata una totale chiusura. Noi abbiamo trovato molto conforto dalle parole di Papa Francesco. Molti sacerdoti ci hanno scritto privatamente dicendo che erano d'accordo, molti hanno firmato l'appello. Io credo che come tutti i cambiamenti hanno bisogno del loro cammino e quindi probabilmente certe cristallizzazioni e certe inamovibilità hanno bisogno del loro tempo. Fatto sta che adesso c'è una legge di Stato, per cui questo è il punto, è il punto. C'è una legge di Stato, padre Virginio Bebber. Questa legge di Stato, secondo voi, ripeto, lei rappresenta 230 strutture in Italia, quindi cliniche, istituti riabilitativi, hospice, case di riposo. Secondo voi è incostituzionale? Non crede che la strada giusta sia fare un ricorso invece che obiettare a una legge, visto che non è prevista l'obiezione di coscienza? Ma noi abbiamo già fatto presente, nel momento in cui il 7 maggio siamo stati ascoltati dalla Commissione del Senato, proprio questa realtà dell'articolo 7 del concordato al comma 3, dove si dice che le attività diverse da quelle di religione e culto svolte da enti ecclesiastici sono soggette nel rispetto della struttura e della finalità degli enti. Ecco, noi siamo stati accreditati, il nostro accreditamento è avvenuto anche attraverso la presentazione della nostra mission. Sì. Nella nostra mission c'è questo valore della vita che per noi è fondamentale. Siamo stati accettati così. Noi chiediamo di continuare ancora in questa realtà di perché questa rispetto. Legge non rispetta la vita, questa legge, secondo lei? Ma a mio avviso, quando a un certo punto si pensa che io capisco la figlia di quel paziente di cui avete presentato la lettera. È Michele Gesualdi, l'allievo prediletto di Don Milani, non è? Non per dire che ognuno è un essere umano, ecco, non è certo, che, però è una persona conosciuta. Guardi, ho vissuto anch'io vicino anche ad altri pazienti di là, in questa maniera qua. Noi siamo sempre del parere che dobbiamo saperli accompagnare. Ci sono le terapie anche delle cure palliative che possono aiutare questi pazienti a superare quei 100 metri che mancano ancora alla fine della vita. Quindi noi diciamo proprio nel rispetto completo. Le cure palliative sono un'altra cosa, però. Le cure palliative sono un atto di compassione e sono giuste, ma voglio dire. Ma, c'è però scritto anche nella Costituzione il diritto di ogni paziente di rifiutare ogni trattamento sanitario. Nessuno mi può neanche prelevare il sangue se io non voglio, certo, capisce padre Bebber. Ma vede, quando una persona si affida a una o si accosta ad una struttura sanitaria, fa un patto. È un patto tra due. Se c'è qualcosa che non va fra i due, l'altro sceglie un'altra strada. È la libertà che uno ha sempre. Noi non discutiamo però, sulla libertà. Padre, mi scusi, io qui non capisco. Se è un patto a due, voi leggevo nella lettera che si parla della figura del medico in qualche modo mortificata, come se il paziente non si fidasse più del medico. Viceversa, però, se il paziente esprime una propria volontà in maniera dichiarata e definita a monte, in che senso il medico si sente sfiduciato o sente che il rapporto sia leso e compromesso? Cioè, il medico non è volto ad aiutare il paziente? Il medico è volto ad aiutare il paziente, però non deve essere così talmente schiacciata la sua volontà su quella del paziente. Cioè, il medico deve avere anche una certa sua dignità personale, certo, derivante proprio dalla sua... Ma non deve sopravanzare il volere di un paziente. Cioè, lei dice violentare Sandra Gesualdi addirittura. Io non voglio penso che il medico non voglia violentare nessuno. Poi c'è un punto... Se vede che violentare in senso figurato, la libertà, la volontà. Se il paziente vede che quel medico là non è più in linea con le sue idee, fatto che cambiare medico. Questo è un punto fondamentale, perché lei, padre Bebber, ci sta dicendo tra le righe, però vorrei che ce lo dicesse chiaramente: nelle nostre 230 strutture non si applicherà questa legge, perché se lei ci dice il paziente può andare da un'altra parte... Ci sta dicendo che nelle 230 strutture non l'applicherete. Certo, noi l'abbiamo detto in Senato. Sono prestazioni che le nostre strutture non daranno. Non daranno. Siamo, il paziente ha fatto questa scelta, noi siamo disponibili, anche se questo... è nella nostra struttura, ma questo è chiaro. Questo è chiaro, se no vadano in una struttura diversa. È chiarissima la sua posizione. Padre, c'è un altro aspetto che mi interessava e su cui le volevo chiedere la sua opinione. Ieri ho letto un parallelo che era stato fatto, credo, dal direttore del Cottolengo, che parlava di quello che ha fatto Cappato, invece, proprio al contrario. Cioè, fare anche voi quello che ha fatto Cappato sul fronte avverso. Cioè, Cappato ha deciso di sfidare la giustizia, farsi processare proprio in virtù di, appunto, eutanasia e battaglie di questo genere. E leggevo che la vostra posizione è che siete pronti a farlo anche voi in un eventuale conflitto tra la legge e il Vangelo. Voi siete tenuti a scegliere il Vangelo e che quindi siete pronti, insomma, a sfidare le leggi. Siete pronti a violare anche la legge lo Stato. Questo è. No, non è che violiamo la legge dello Stato. È violare una legge, padre. Se poi... la legge è stata approvata, sì, diventa questo. Sì, ma però a un certo punto ci sono delle prestazioni che secondo la nostra etica, che è accettata nei contratti di accreditamento, sono delle prestazioni contro la nostra etica. Noi non diciamo di no, prendiamo questi pazienti e li accompagniamo presso una struttura, insomma, che fa. Dice, non dite no, però dite qui la legge di questo, la legge dello Stato, non, così non la vogliamo applicare perché confligge la nostra etica. Andate in una struttura pubblica. Sandra Gesualdi, che ne pensa? Perché le è uscita questa parola distinto, violentare, che no, è allora molto io forte. Vorrei fare un po' di chiarezza, sì. Perché io il DDL 2801 l'ho letto e mai e poi mai avrei appoggiato e promosso una legge che prevedeva l'eutanasia, quindi questo avrei premetterlo, ma neanche una legge... L'eutanasia che qui non c'è, però, diciamo, esatto, nella assolutamente legge. Non c'è. Io vorrei capire come fanno a obiettare. Allora, questo disegno di legge che è diventata legge di Stato, si sviluppa su dei punti molto chiari. Molti erano quelli espressi dal il punto, sa qual è, Gesualdi, sì, che è il punto chiave. Ogni terapia è rifiutabile. Secondo questa legge, la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale sono considerati terapia e quindi rifiutabili. Per i cattolici sono invece cure e quindi non rifiutabili. Che esulano dalla terapia. Questo cioè è il punto fondamentale. Prego. Ma allora tutto è cura, qualsiasi farmaco. Ma guardi, io la penso cura. Come lei, per spiegare agli ascoltatori. Allora, mi dovete legare e fare qualsiasi tipo di cura, perché la idratazione e alimentazione non è il pane e l'acqua, come semplicemente si dice. Fare una PEG vuol dire subire una operazione chirurgica, cioè vuol dire incidere lo stomaco, non è una cosa proprio semplice. Sì, suo padre lo spiega molto bene nella lettera, certo, tra l'altro. E per incidere il mio corpo vorrei il mio consenso. Chiaro, ma e questo è il motivo per cui è stata considerata una terapia e quindi rifiutabile. Certo che è una terapia, no? Non è che, non è che vogliamo far morire di sete o di fame i pazienti, assolutamente. E quello che diceva il signore è per l'80% ciò che c'è scritto sulla legge. Sì. Ma ecco, sul punto, che ne pensa del fatto che padre Virginio Beber dice nelle nostre strutture è chiaro, non verrà applicata questa legge, accompagneremo il paziente, di andate in una struttura dove qui è contro la nostra etica. Sì, lo so, ma io credo che l'etica non possa andare contro legge, prima cosa. Seconda cosa, non credo poi che lo Stato non possa più accreditare certe strutture. Questa infatti è la minaccia che è stata fatta. Padre Beber, lei non teme che lo Stato possa legittimamente dire allora noi l'accreditamento lo togliamo a queste strutture se non si applica una legge dello Stato? Posso dire un'altra? Sì, sì, un attimo, sentiamo Beber e poi le facciamo. Allora, io le voglio dire una cosa. Allora, anche a me, quando sono stato convocato dall'onorevole Renzi, mi ha fatto vedere su un iPod una persona con una PEG. E io gli ho detto molto semplicemente, ma quando gliel'hanno messa, qualcuno ha firmato quel consenso informato. Quindi non è che gliel'abbiano imposta. Vabbè, la cosa. Ma uno può cambiare idea, padre. Cioè, può dire, nel senso, al centro c'è il paziente, no? Non il volerlo tenere in vita a tutti i costi, non crede? No, no, tra l'altro mi scusi, padre, ma... Io non voglio tenere in vita a tutti i costi. E allora se uno cambia idea... Ma poi cambiare idea è proprio... Voglio accompagnarlo. voglio essere il suo compagno di viaggio. Ma uno deve volerlo accettare, un compagno. Magari padre, non lo vuole un compagno. Se non mi vuole, scegliere un altro compagno. Il punto del cambiare idea, tra l'altro, è uno dei punti su cui voi battete molto, al contrario di quello che sta dicendo Milan. Cioè il fatto che in realtà il paziente può cambiare idea dopo aver dato delle dichiarazioni anticipate in cui diceva di non volere le cure, e secondo voi può invece in un momento poi di dolore, di difficoltà, cambiare idea e voler continuare a vivere. È legittimo, è corretto anche questo? Può capitare, certo. E può capitare il contrario anche. Beh, è uno dei vostri punti principali nella lettera. Scusate, ma io mi domando, ieri sera abbiamo visto che è morto in un incidente stradale il ministro Matteoli, l'ex ministro. Ma quando sono andati a soccorrerlo, qualcuno gli ha chiesto i data loro, a lui? Perché se uno avesse detto, che in quelle condizioni c'era la legge, morire. Non c'era ancora la legge, d'accordo. Ma se le avesse fatte, per esempio. Cosa avrebbero fatto? Beh, si sarebbero dovuti attenere, immagino, a questa data, anzi, non immagino, si sarebbero dovuti attenere per legge a questa per data. Per forza, certo. Anche quando si va a soccorrere uno per strada? Ma guardi, padre Beber, è così, cioè nel senso, poi a lei può non piacere, e l'abbiamo capito che non piace, ma è così. La cosa che mi colpisce è che nelle strutture che lei non piace. No, perché invece quando si va a soccorrere qualcuno sul lungo della strada, tutti dicono fatti in fretta perché bisogna salvarla per tutti i costi. Poi dopo magari fra 5, 6, 10 anni viene fuori, ma io volevo morire. Se è scritto è quella la volontà. Sandra Gesualdi, cosa voleva aggiungere? Perché le abbiamo tolto un attimo la parola. Sì, scusate, stiamo analizzando dei casi sbagliati. Allora, il medico è sempre tenuto a lavorare pro vite, a agire sempre pro vite. Chiaramente, se voi prendete come caso un incidente stradale, è chiaro che lì si fa di tutto per salvare. Noi qui stiamo parlando di disposizioni anticipate in caso di malattie incurabili e degenerative, incurabili. Io so di essere malato, so che da qui a tot mesi non ci sarà più niente da fare per me. Prima che la malattia prenda il sopravvento della mia dignità, del mio pensiero, della mia anima, perché vi posso assicurare che il dolore carpisce e mangia anche pensiero e anima, io chiedo di andarmene via in modo dignitoso. E la legge parla proprio di quell'accompagnamento che padre Beber ci sta citando, e lo rende democratico per tutti. Le cure palliative adesso soltanto poche regioni o forse poche strutture, probabilmente quelle a carattere cattolico, le hanno a disposizione. Qualsiasi cittadino italiano deve averle a disposizione, per questo è una legge importante. In Puglia, in Sicilia, che cosa sono le cure palliative? Neanche lo sanno. In Toscana, questo poi è un altro problema che lei ha toccato. Non è un è un problema serio. Cioè, che l'Italia è chiaro, il diritto alla salute. Che l'Italia in questo non è democratica, perché purtroppo ci sono effettivamente dei cittadini di alcune regioni che non hanno diritto e non hanno accesso alle cure palliative, come in questo caso, come invece in altre regioni che fortunatamente sono più avanzate. E quindi perché non rendere tutti i cittadini in grado di essere curati e di poter accedere al diritto? Ma guardi, avete posto tante problematiche interessanti, molti ascoltatori ci stanno chiamando. Noi per il momento vi dobbiamo ringraziare, Sandra Gesualdi e padre Virginio Beber. Ripeto, secondo me questa vicenda, a parte la stampa, è sottovalutata dagli altri giornali. Non so cosa ne pensi tu, Veronica, perché ci sono 230 strutture, ci ha detto, e padre Beber le rappresenta, a dire noi qui la legge non l'applicheremo, cioè è contro la nostra etica, e questo porrà un problema oggettivo di cause, di denunce. Il principale che si pone, secondo me, Alessandro, è quello appunto dei finanziamenti dello Stato e del fatto che siano delle strutture finanziate dallo Stato. Moltissimi messaggi sottolineano questo, dicendo se si decide di optare per una strada altra rispetto a quello che prevede la legge, si decide di rinunciare a quei finanziamenti e muoversi in un altro modo. Ieri il ministro Lorenzin era atteso da una dichiarazione che poi non c'è stata. Ministro Lorenzin, che tra l'altro è di estrazione cattolica, il ministro della Santa, cosa ne pensa? Può venire a dire, non a noi, ma voglio dire agli italiani, molti che attendono, che succede se queste strutture non applicano la legge dello Stato, fanno un'obiezione di coscienza laddove anche non è scritta? Togliamo l'accreditamento? Possono continuare a essere accreditate nel sistema sanitario nazionale? Non so, vorremmo saperlo. Non so se poi a questo punto è anche reato in qualche modo, io questo non so se è previsto. È della legge, è credo reato. Che lo sia. Diranno è un'obiezione di coscienza. Faccio notare che è vero, molte leggi sono, ci sono obiezioni di coscienza, no? Ci sono molte persone che vogliono violare una legge. In questo caso però non è che violano la legge e ne pagano le conseguenze. Qui violano una legge, ma violano probabilmente anche la volontà di una persona che invece vorrebbe che quella legge fosse applicata. Cioè, ci sono due persone in gioco, il medico che è e l'opposto il paziente. Dell'esempio, dell'equazione che facevano con Cappato, che loro hanno fatto per primi e che invece in quel caso asseconda la volontà del paziente contro la legge dello Stato, che è diverso. In ogni caso, chiamateci come molti stanno facendo, andiamo un attimo in pubblicità, poi parleremo anche tema, avremo una prossima funambola perché parleremo di figli adottivi, perché c'è una legge che anche questa nel silenzio un po' generale sta per essere approvata forse definitivamente dal Senato e ne parliamo tra poco. State con noi. Che succede? È saltato tutto. Rimaniamo tutti insieme. Classica situazione di salto. Si sono fermate le macchine. Ci sono gli ascoltatori. Andiamo avanti. Quando c'è la pubblicità siamo pronti. C'è Norberto dalla provincia di Foggia. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci Norberto. Sì, benissimo. Sì. Buongiorno. Io volevo dare soltanto due contributi alla discussione che state facendo. Intanto concordo con padre Weber. Lui dice che per ottenere la nutrizione artificiale è necessario il consenso. E allora vorrei ricordare che nel 2007, quindi 10 anni fa, la Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale, proprio per questo ricordò che la nutrizione artificiale è da considerarsi un trattamento medico, quindi la legge non fa altro che dare riconoscimento a questo aspetto. E infatti è stata riconosciuta come una terapia. Un altro punto che volevo sollevare, sempre sull'obiezione di padre Weber, le cure palliative. L'Italia è l'ultimo paese in Europa per attuazione della legge sulle cure palliative. E poi un ultimo aspetto, questo anche legato alle battaglie dell'associazione Coscioni e di Marco Cappato, è necessario difendere chi è affetto da malattie neurodegenerative o comunque particolarmente invalidanti. Mi piacerebbe una mobilitazione di tutti i cattolici e di tutti i cittadini per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per garantire l'autonomia di coloro che sono affetti da disabilità, vedere da questo punto di vista il reale impegno, perché la qualità della vita deve essere garantita in primo luogo. Poi dobbiamo preoccuparci o meno se dobbiamo imporre ad altri altre scelte. No, però ma infatti io molti infatti sottolineano che la vita non è solo la vita, ma conta anche la qualità, come lei ha sottolineato. Allora andiamo da Gianni della provincia di Milano. La pubblicità non vuole andare perché adesso stiamo riavviando i computer. Abbiamo fatto Ctrl Alt Canc e poi dopo ci siamo. Gianni della provincia di Milano. Ciao Alessandro, buona giornata. Buongiorno. Ascolta, ho sentito un po' di battute ultimamente nell'ultimo stralcio di trasmissione. Mi è venuto in mente che il vecchio motto risorgimentale di libera chiesa in libero Stato non esiste, no? Almeno da noi non è ancora stato applicato. E quindi poi noi ce la prendiamo tanto con i paesi, no, di islamici, no? Con le teocrazie, poi noi siamo i primi ad averne una in casa e non accorgercene. Un aspetto però assolutamente fondamentale: qualche anno fa è morto, io credo, uno dei migliori cardinali di Milano, no? Martini, affetto da Parkinson, e nell'ultima fase della sua vita ha deciso di non essere alimentato artificialmente. Ed è una scelta credo che adesso possono fare tutti, a meno legge alla mano. Dopodiché è chiaro che se abbiamo strutture dove non viene applicata, È una scelta di un esponente della nomenclatura, no? Che ancorché gesuita e quindi molto vicino all'attuale Papa. No? Francesco, sì. Ok. Mi è sembrato a suo tempo un ottimo segnale. Sì. No, poi sento il L'ospite, Bebber, si sì, chiama. Padre Bebber, okay. Padre Bebber, okay. Con tutte le Bebber. E facciamo un ritorno al Medioevo velocissimo. Ma adesso, ecco, va bene Gianni, questa è la sua opinione molto, molto netta. Ricordate che Padre Bebber è a capo di una struttura, ARIS, che rappresenta 230 tra cliniche, istituti riabilitativi, hospice, case di riposo, so, Dognocchi, Don Orione, Maugeri, cioè... Tutte queste, quindi non è come dire il primo che passa, e quindi quando parla a nome di... Il Policlinico Gemelli, il Bambin Gesù, parliamo di tantissime strutture, tra i più importanti ospedali di Roma anche. Dove purtroppo ci sono tanti malati e tante persone che dovranno trovarsi di fronte a questa scelta fatta e magari non applicata, almeno così ci ha detto Padre Bebber, da quelle strutture. C'è Roberto da Napoli, poi cambiamo tema. Roberto. Sì, buongiorno. Ascoltavo appunto questo argomento, sì. Come se ne è accennato anche qualche giorno fa. Non è solo questione di legge, la legge esiste, ma succede, e quindi l'obiezione di Padre Bebbe non è solo, cioè al momento è solo per le strutture di origine sì. religiosa, ma senz'altro si preparerà anche per le strutture pubbliche, ho capito, ciò quanto ragazzi, avviene, ma... come avviene per l'interruzione di gravidanza. Ma no, perché nell'interruzione di gravidanza, nella legge, è prevista l'obiezione di coscienza messa proprio per iscritto, e quindi un medico può dire io sono obiettore di coscienza, e qui vabbè è un'altra questione, è un altro tema, anzi lì il problema si pone quando sono solo obiettori di coscienza, che si è verificato anche questo esatto. in Italia. Però lì è prevista, qui no. Qui non è prevista l'obiezione di coscienza che ci stanno facendo presente, è un'obiezione etica che deriva dal fatto che dice a me questa legge non piace e quindi non la applico. Però capite che si creeranno dei contenziosi, ecco, questo sì. Mi dispiace poi sulla pelle di persone che stanno soffrendo, perché questo è il dato di fatto. Il dato chiaro. Di fatto è questo. Comunque chiamateci e continuate a chiamarci all'800240024. Veronica, però c'è un'altra funambola che, eccola qui, è già arrivata con noi e parliamo di questo tema. Si tratta di Monica Rossi. Buongiorno e benvenuta Monica Rossi. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, salve. Monica Rossi è cofondatrice dell'associazione Figli Adottivi e Genitori Naturali, perché al Senato stanno approvando, alla Camera è già passata nel giugno 2015, quindi siamo alla stretta finale, potrebbe esserci anche delle novità oggi, una legge che potrebbe dare, permetterà ai figli non riconosciuti alla nascita di ritrovare la madre attraverso il tribunale, sono con il suo consenso, dopo il compimento dei 25 anni, cioè da parte dei figli di cercare di scoprire le loro radici anche biologiche, ecco, mettiamola così. Monica Rossi, ma perché è così importante questa legge per lei, per voi, per chi rappresenta lei? Ma questa legge è importante perché il diritto alle origini è un diritto che nasce da un bisogno esistenziale che è fondamentale per ogni cittadino, perché nasce a delle radici profonde nella nostra identità. Noi abbiamo bisogno di sapere chi siamo, abbiamo bisogno di conoscere la nostra storia, e anche queste madri che hanno tantissimi anni fa dato in adozione un bambino non riconoscendolo potrebbero aver bisogno di un'occasione, di una possibilità di capire chi è il figlio, di conoscerlo, di sapere che sta bene. La legge chiaramente però punta sul fatto che entrambe le parti siano consenzienti e abbiano la volontà di incontrarsi, altrimenti non è fattibile. Ma sicuramente è un bilanciamento di diritti, cioè il diritto della madre a voler restare anonima, se decide di voler restare anonima, va è tutelato. Il diritto che va tutelato in caso la madre decida di riconfermare questa possibilità. Sì. È il diritto del figlio alla sua identità, che è un diritto molto forte. Questo diritto prevale nel momento in cui la madre sia deceduta. Ah, quindi è possibile conoscerne l'identità nel momento in cui la madre sia deceduta. Sì, ci sono state già 3 sentenze di Cassazione, perché è successo che dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2013 il Parlamento ha approvato un disegno di legge nel giugno 2015. Sì. E poi questo disegno di legge si è arenato al Senato. Ecco, si è arenato, però ci faccia capire, perché è vero che oggi potrebbe esserci una svolta. So che non tutti i partiti, non tutti saranno d'accordo, però voi puntate che questa diventi una legge, una delle ultime approvate di questa legislatura a questo punto. Certo, questa legge è stata promossa fortemente da noi e dal Comitato Nazionale per il Diritto alle Origini Biologiche. E quindi da una maggioranza di figli adottivi che da anni si batte per questo diritto. Il problema è che questa legge arriva temporalmente, siamo fuori tempo, direi, nel senso che nel frattempo la giustizia si è già mossa. Sì, siamo arrivati a una sentenza, sezione unita della Cassazione. Guarda, che come spesso accade, di fronte alla inazione del Parlamento i magistrati si muovono e fanno... Quando le sentenze cominciano a andare in una direzione, a quel punto poi la politica segue. La politica segue, ma in questo caso è gravissimo perché si tratta di diritti molto delicati e importanti e ci sono donne che hanno un'età avanzata e che nel frattempo sono morte. Abbiamo impedito con questa inerzia, e dico inerzia perché alcuni tribunali non si sono adeguati alla sentenza della giustizia, ma attendono la legge. E quindi ci sono dei figli che vivono in uno stato di iniquità proprio sul territorio italiano, per cui in alcune città viene già attivato l'interpello da tempo, e in altre tutto è fermo. Ma quali sono state le principali resistenze a questa legge? Cioè, quali erano le motivazioni contrapposte? Ma una di queste motivazioni riguardava il fatto che si temeva un aumento di abbandoni dei neonati o di infanticidi addirittura. In realtà in Europa questo diritto, in molti paesi europei, è sancito da tempo e non risulta che ci sia un aumento di fatti di questo tipo, e oltretutto direi che è piuttosto pretestuoso. Mi sembra un collegamento azzardato, cioè un infanticidio con una legge come se il terrore della madre di essere poi identificata successivamente fosse tale da arrivare a uccidere il bambino. Questo ma dovrebbe essere il motore. È più terrorismo psicologico il collegare, fare questo collegamento, perché. Però c'è un punto, Monica Rossi, che io sul quale insomma ho delle perplessità. Evidentemente, se una madre ha abbandonato il figlio, arriva a fare un gesto così, così, così forte, così tragico, vuol dire che può anche essere che non abbia cambiato, che non cambi idea durante il corso della sua vita e che sia. E che sia ferma su questa decisione. Ecco, questo insomma si va un pochino, questo dico, nel garantire un diritto a voi figli, a ledere il diritto a una persona che vuole essere dimenticata. Come la mettiamo questo tipo di discrepanza? Ma intanto direi che c'è una questione di responsabilità, cioè la madre in un tempo lontano, in un momento, può prendere una decisione di questo tipo a tutela del bambino per circostanze che noi non conosciamo. Gli anni passano, è possibile che questa donna ci ripensi, è possibile che andando a bussare alla sua porta con delicatezza, ed è qui che noi insistiamo sul fatto che gli interpelli devono essere fatti con attenzione e cautela rispetto alle esigenze della donna, però dobbiamo offrire a lei questa opportunità e non le diamo nulla, nel senso che noi le chiediamo di poter conoscere se vuole questo figlio. Se decide di confermare la sua scelta, certamente l'anonimato resterà. Faccia capire, no, in conclusione, perché questo punto non l'ho capito. È vero che dice molto spesso le sentenze superano la legge approvata, ma viene approvata, confidata, perché oggi è prevista la commissione, credo, in commissione bilancio, una seduta che dovrebbe licenziare questo disegno di legge. Cioè, c'è la possibilità che diventi legge dello Stato o no? Certo che c'è questa possibilità se la commissione giustizia approverà in sede deliberante la legge. Siamo in tempi strettissimi. I tempi sono stretti, chiaro. La legislatura sta anche finendo, quindi. Tempo lo hanno avuto e doveva essere fatto prima, non ci sono dubbi. Questo è valso per innumerevoli leggi di questa però legislatura. Però Monica Rossi, non lo so, magari lei dice comunque attraverso sentenze a Cassazione si può ottenere già quello per cui ci battiamo. Magari ci sarà anche una legge dello Stato tra poco. Insomma, abbiamo parlato d'altronde, ha sentito, di una legge dello Stato approvata che però viene già contestata. Adesso forse avremo una legge dello Stato. Staremo a vedere, cara Veronica. Intanto la ringraziamo, Monica Rossi, grazie per essere stata con noi. Allora, abbiamo recuperato tutto. Siamo tornati in piena e perfetta efficienza. Se facessero un altro lavoro i medici obiettori di coscienza. Milan, allora ho sentito che passi le feste a Milanello con Gattuso. Buon Natale, Grazie anche a te, caro ascoltatore. Ma volevo commentare, ho sentito questa cosa che purtroppo non farai la cena di Natale, vero? No, è stata rinviata la cena di Natale prevista ieri perché, caro Leonardo, cuore rossonero, fratello, tutto in ritiro! Ma Gattuso è Gattuso, Milanello è un bel posto, perché infatti... Milanello è nel Varesotto, è una zona anche abbastanza amena, vicino alle montagne, sì. Quindi è bello passare le vacanze a Milanello. Ma poi scusa, tu Veronica, tra una cena di Natale con tutti i dirigenti del Milan, le mogli, le fidanzate, il panettone a rottura di palle, così, cioè, o una bella serata alla PlayStation tra uomini e Milanello, ecco. Ma secondo me hanno insultati. Comunque io mi offro per consolare le mogli dei giocatori del Milan che sono in vacanza a Milanello. Attenzione. Tu lo fai da tifoso che vuole dare un supporto alle signore in difficoltà. Sì, sì, certo. Il mio ruolo anche sociale, diciamo, in qualche modo. Certo. Hai sentito che si è, vieni qui a spiegare a Leonardo Manera che si è, ti vuole insidiare la fidanzata. Ho trovato quello più Marcantonio che vuole. Bonucci, hai sentito Leonardo Manera? Sarebbe un'esperienza, perché non ho mai avuto rapporti con una fidanzata di un calciatore. Quindi vorrei accoppiarmi per una volta con la fidanzata di un calciatore. È un'esperienza che tu vuoi fare antropologicamente parlando, sì, non per altro. No, proprio perché di solito sono molto, diciamo, avvenenti. Voglio accoppiarmi con le fidanzate dei calciatori. Va bene, l'appello cadrà nel vuoto. Chi lo sa? Vediamo. Cioè, tutto un'ora ancora. Senti qua. Cos'è questa musica? Io non lo so, ti accoglie. Ah, è la mia? Sì, la tua. Sai che non l'ho mai notata, è la prima volta che la sento così dall'inizio, è veramente brutta. Eccola lì. Fa schifo questo. Smettila. Mi fa schifo veramente, no. Cambiamola subito. Ma Peter, no, senti che anche è regale. Oggi voglio fare una cosa storica, vedi come siamo a 360 gradi. Che parla proprio del re Vittorio Emanuele III, di cui ieri sono rientrate le spoglie, no? Certo, in Italia. Con tante polemiche annesse anche qui. E che riguarda in qualche modo l'Italia, perché la Repubblica nostra italiana comincia a nascere in realtà il 25 luglio del 43, giorno in cui il Gran Consiglio fascista capisce che il fascismo è finito e approva l'ordine del giorno in cui si invita il duce a pregare il re affinché il re voglia, per l'onore e la salvezza della patria, assumere con l'effettivo comando delle forze armate di terra, di mare e dell'aria, secondo l'articolo 5 dello Statuto del Regno, quelle supreme iniziative di decisione che le nostre istituzioni a lui attribuiscono. Cioè, in pratica, dicono al duce: vai dal re e dimettiti, lascia perdere. Ma insomma, è sempre difficile convincere un politico a dimettersi, tranne qualcuno che, quando capisce di essere in difficoltà, se ne va senza problemi, come insegna Maier nel Bosco. Il duce va dal re, ma ci sono già 200 carabinieri che hanno circondato l'edificio Villa Savoia. Arriva un'ambulanza della Croce Rossa e lo porta via, cioè portano via Mussolini su un'ambulanza, che è come dire: non stai bene. Il problema è che ci ha messo 20 anni per accorgersene, ma si sa che in Italia la sanità ha i tempi lunghi. Però la dittatura fascista sta finendo e si comincia a intravedere qualcosa di diverso. Poi in agosto, sempre del 43, cominciano le trattative con gli anglo-americani, che vogliono la resa incondizionata. Lo stato maggiore del re Vittorio Emanuele III accetterebbe, invece il re non ci sta. Anzi, vuole anche il ripristino dell'impero coloniale in Libia, Somalia ed Eritrea. Insomma, vuole mantenere le sue prerogative, a pretese inaccettabili. Secondo me vuole anche che un suo discendente poi vada a cantare a Sanremo con Pupo, che poi tra l'altro è successo veramente. Finché il re capisce che gli americani stanno arrivando, e allora il 3 settembre a Cassibile, vicino a Siracusa, fa firmare al generale Castellano l'armistizio con gli alleati. Poi però, qualche giorno dopo, si pente. Il re si pente, è pronto a rimangiarsi tutto, quando un ufficiale gli fa notare che la firma dell'armistizio è stata filmata e fotografata dagli americani. Allora il re dice: oh cavolo, ci hanno firmato, se mi rimangio tutto mi vengono qui e mi danno il tapiro d'oro. E il re allora conferma l'armistizio, il famoso 8 settembre. Poi fugge a Pescara senza dar disposizioni. Le truppe italiane non sanno più cosa fare, ma il re, valorosamente, da Pescara prende il traghetto per Brindisi, e mentre sul traghetto manda un telegramma al generale Caviglia, che ha 81 anni, in cui il re gli dice di difendere Roma. Non si capisce bene da chi, se dai tedeschi o dagli americani. Glielo ordina dal ponte del traghetto al generale Caviglia, che ha 81 anni. Io mi immagino il povero generale Caviglia, che ha 81 anni, è lì con la minestrina in casa di riposo e dice: andiamo a difendere Roma. Quindi solidarietà al generale Caviglia. In molte vie c'è via generale Caviglia, anche qui a Milano. Ma ormai è tardi, perché i tedeschi hanno liberato Mussolini. Mussolini che poi definisce il re il più grande traditore della storia, colpevole di aver fatto entrare in Italia un esercito di ottentotti, sudanesi, indiani, venduti, negri, statunitensi e altre varietà zoologiche. Insomma, da queste parole si capisce che Mussolini era un tipo aperto e senza pregiudizi razziali. La guerra dura ancora quasi 2 anni, ma finalmente il 2 giugno 46, praticamente per la prima volta dal 1924, gli italiani vengono richiamati alle urne per un doppio voto: scegliere tra tra monarchia e repubblica, e da lì comincia la gloriosa storia della Repubblica italiana nonostante Vittorio Emanuele III. Le tue spoglie però sono rientrate. Tra l'altro c'è stata questa polemica che continua sul fatto che lo Stato abbia pagato l'aeronautica, il trasporto, ma insomma la difesa è stata era stato a capo delle forze armate, sì, infatti loro hanno detto che tutti i militari rientrano con l'aereo niente. Va bene, il generale Caviglia. Caviglia ti ha colpito. Ha 81 anni, poverino, ha richiamato a difendere Roma. Pensa a sto povero generale, che se non sbaglio era stato una specie di eroe della prima guerra mondiale. Però guarda, invece che ci sono tanti ascoltatori, devo dire che il tema sul fine vita, il testamento biologico ha colpito. Gemma Maria, giusto, da Roma, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Prego, prego. Allora, non è solo quello il discorso. Io anche ho seguito il discorso sul diritto che hanno, sì, da un certo punto di vista, giustamente, anche i figli di sapere i genitori, insomma, no, queste cose. Ah, lei qui parla quindi del secondo tema che abbiamo affrontato. Sì, sì. Del primo e del secondo, perché secondo me le leggi sono anche giuste, ma sono impostate molto male. Si faccia ricorso alla Corte Costituzionale. Il problema è che l'accanimento terapeutico è sbagliato, però dicendo che uno può non curarsi, cioè decidere di non fare una trasfusione, quindi i genitori di non farla fare ai figli, ad esempio, si apre anche la stura a tante cose pericolose, ecco. Lei dice, secondo me pericolose. Insomma, lei vede questa, sì, come l'antecamera. Potrebbe dire, scusi, le sto parlando sopra. Sì. No, lei dice anche il vede questo come l'antecamera della possibile eutanasia, la traduco così? Sì, ecco, esattamente. Che è un po' il timore che anche ha detto l'arcivescovo di Torino lanciando questa campagna poi delle strutture cattoliche. Insomma, io non la penso così, ma insomma, noi accogliamo il parere di tutti gli ascoltatori. Anche perché si è fatta, insomma, si è battuto molto sul fatto che fossero due materie distinte, che questa legge non rendesse assimilabili le due cose, quindi io non credo proprio. Francesco dalla provincia di Roma, ce la facciamo con lei a chiudere la prima ora dei Funamboli, eccoci. Francesco. Sì, avevo chiamato, visto che mi chiama sul tema, buongiorno, della no, su quello che lei vuole dire. Sì, lei che in realtà sì, erano collegati due argomenti, quello della legge sulle adozioni, perché sono un padre adottivo, però giusto mi permetta una battuta sulla legge sul testamento biologico. Certamente regolamentare questo tema è stato utile, probabilmente perché c'erano dei vuoti legislativi, ma non possiamo nascondere né fare una crociata contro la Chiesa o comunque i cattolici che difendono giustamente, sì, il diritto alla vita, non solo quando le persone sono scappate. Ma questa legge non lede il diritto alla vita. Comunque ci interessava il discorso se siamo noi in uno stato laico, altrimenti sì, peraltro particolare non secondarissimo. Signora, siamo in uno stato laico, ma non si lamenti, non creda che il Papa non possa esprimere la sua posizione. Ma la esprima, no, ma è un conto esprimere la posizione e quello è fantastico. Altra cosa è nel momento in cui qualcuno arriva in una struttura e la legge prevede che debba ricevere determinati trattamenti perché è previsto e qualcuno decide di non farlo perché obietta senza poter obiettare. Però, quello è un altro conto. Francesco, ci interessa, ma le devo chiedere adesso di pazientare un attimo perché dobbiamo andare al giornale radio. Se vuole, ha pazienza, la richiamiamo subito dopo per la sua posizione da padre adottivo, mi sembra di aver capito. Forse sì, ci interessa anche il suo parere sull'altro tema, la questione dei figli, di sapere le loro provenienze biologiche e le loro radici. Come al solito, la Chiesa ha la prerogativa di decidere per gli altri. Io penso che l'obiezione di coscienza per il fine vita sia legittima. Allora, alle 10:07 minuti inizia la seconda ora dei Funamboli. Vedi, due pareri proprio a contrasto. Leonardo Manera, che ne pensi di questo? Io penso che la legge sul fine vita sia importante perché è un primo passo avanti che rimette un po' al centro le scelte della persona. Tutto è migliorabile, però insomma dal mio punto di vista è una cosa buona e giusta. Ma no, tutto è migliorabile, no. Questo sì. Io, quello, ripeto, sempre. Non capisco, cioè l'opposizione a una legge si fa attraverso le vie democratiche, fate ricorso alla Corte Costituzionale che vi ascolterà se ci saranno termini per capire se questa legge sia incostituzionale. Mi permetti una citazione molto alta, no? Che mi sono... Certo, è il momento della cultura che torna. Ecco. Costretta a non fare. In realtà quello che vogliono fare, questi appunto, padre Beber ce l'ha spiegato, è un po' quello che succedeva nell'Antigone, in cui Antigone, no, l'Antigone di Sofocle, in cui Antigone non poteva seppellire per editto del re Creonte suo zio il fratello, perché per le leggi dello Stato era così, e lei decideva di seguire le leggi degli dei che gli imponevano di dare comunque degna sepoltura al fratello. Ah. Ecco, quello ricorda molto questo genere di cosa qui, la dichiarazione che fanno questo gruppo di cattolici, dicendo noi seguiamo le leggi di Dio e non le leggi dello Stato. C'è Francesco dalla provincia di Roma, lo ringraziamo perché l'abbiamo recuperato prima, sa, i tempi sono tiranni in radio, quindi adesso abbiamo un po' più di tempo per spiegarci soprattutto la sua posizione da padre adottivo. Francesco, lei che ne pensa di questa legge che sta per essere approvata? Sì, la legge, grazie di avermi richiamato, la legge secondo me è poco utile, nel senso che riguarda un sottogruppo limitato di adozioni. Perché in Italia, se voi andate sul sito della Commissione Adozioni Internazionali, la Commissione Adozioni, la stragrande maggioranza dei bambini adottivi e quindi dei figli adottivi provengono da paesi esteri, sì, come nel nostro caso. E questo cosa significa? Questo significa che il diritto al, come dire, conoscere, sì, in qualche modo le informazioni biologiche del bambino, della persona adottiva, intanto viene garantito al rientro in Italia quando c'è una serie di visite, ad esempio ai gemelli, in cui si può arrivare anche a fare, diciamo, lo studio, non voglio esagerare, del genoma, ma comunque i bambini sono sottoposti a una serie di screening estremamente accurati. Però diverso è il caso di chi voglia conoscere un po' da più grandicello, come dire, l'identità. Però Francesco, scusi, le faccio, sì, un'obiezione, sì. Io posso capire, lei dice è un caso limitato, però mi dica e ci dica se la legge non le piace sul punto, perché se fosse giusta anche solo per una persona è una legge giusta. Se invece lei dice no, non trovo giusto che un figlio abbandonato possa riscoprire le proprie radici biologiche, guarda che molti lo dicono così, dice, no, vuol dire andare a riaprire un dolore nei confronti della madre. Innanzitutto come la legge italiana aiuta noi famiglie adottive nella fase preadozione a ricostruire col bambino, una volta poi inserito nel, sì, nucleo familiare, la sua storia. Quindi questa è una cosa bellissima che va fatta, va alimentata. Ma lì sono stati abbandonati e loro chiedono invece di sapere. Cioè, e forse sì, c'è una madre che dice non voglio che si sappia, se l'ho abbandonato non lo voglio più. Certo, ma scherza, se non c'è una cosa che mio figlio per esempio conosce, sono tutte le fiabe africane. Non è passata una settimana che non abbiamo visto un film sulla cultura e sul genio dell'Africa. Questo è importante, alimentare le origini, cioè non troncare quella che è stata un'origine, in questo caso addirittura etnica, no? Nel caso dell'adozione internazionale in Africa, eccetera. Però la stragrande maggioranza dei bambini in Italia sono di questo tipo, voglio dire, per il quale assolutamente è inutile questa legge, perché se io vado... Questo ce l'ha già detto. Qui si parla sia utile per invece per quelli per cui è utile. Ecco. Certo. Comunque Francesco, la ringraziamo, dalla provincia di Roma. Allora, vogliamo ripristinare a 10-11 minuti il funambolo del giorno, perché attenzione, c'è una classifica di Legambiente. Parliamo di voi, pendolari d'Italia. So che siete in tanti, anche se sarete già arrivati ai posti di lavoro a questo punto, spero. Ammesso che la vostra tratta ve l'abbia consentito. Sì. Perché Legambiente fa ogni anno le peggiori linee dei treni, e il funambolo del giorno ci parla proprio da quella linea. Nome: Andrea. Cognome: Castano. Età: 40 anni. Pendolare della Roma Lido. Ha un profilo Twitter @iltrenoromalido e un blog Odissea Quotidiana, che usa per condividere informazioni e raccogliere le storie di ordinaria follia sulla linea ferroviaria peggiore d'Italia. per Legambiente, per Legambiente. Andrea Castano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Dire che giusto per completare la classifica di Legambiente, la Circumvesuviana è al secondo posto tra le peggiori, poi la Reggio Calabria-Taranto, la Verona-Rovigo quarta, la Brescia-Casalmaggiore-Parma in abbandono, l'Agrigento-Palermo e così via. Ha fatto un viaggio terribile da Pescara a Roma con un treno regionale. A un certo punto avevo l'impressione che sarebbero arrivati gli indiani ad attaccare il treno. Più di 5 ore da Pescara a Roma. E non è successo, a volte succede. Tra le varie vicissitudini che Andrea Castano raccoglie, questa non è ancora capitata, credo, no? No, c'è capitato di tutto, ma gli indiani ancora non sono arrivati, né gli indiani né gli alieni ancora non, Andrea, non li abbiamo. Che succede su questa Roma Lido di così terribile? Succede che praticamente ogni viaggio sai, forse, se parti non sai quanto ci metti e speri di arrivare tutto intero in piedi. Questo fortunatamente è sempre capitato, diciamo, però ecco, ma qual è il problema maggiore? I ritardi, la linea, ci faccia capire insomma quali sono le problematiche in una sorta di classifica, la sporcizia, non lo so. Sì, i vagoni, ma, diciamo, molto vecchi. C'è un po' di tutto, sì, diciamo che i vagoni sono molto molto vecchi, hanno un'età media di una ventina d'anni, per cui poi sono tutti vagoni, tutti treni non fatti per questa ferrovia, per cui sono stati tutti riciclati dalla metro di Roma, per cui non sono treni nuovi, non ci sono, le stazioni sono la gran parte diciamo dimenticate dall'ATAC, da chi gestisce il servizio, se così lo possiamo chiamare, per cui è abbastanza, diciamo il disagio c'è già la mattina, poi ultimamente negli ultimi anni la tratta rallenta tantissimo, per cui ci mettiamo laddove ci mettevamo una mezz'oretta a fare 28 chilometri, perché 28 chilometri stiamo parlando, adesso ci vogliono più di 40 minuti. Ma perché i passeggeri sono anche moltissimi, sono 55.000 passeggeri al giorno, tra studenti e gente che lavora. Sì, il calcolo più o meno sono 100.000 passaggi, per cui 50 andare e 50 tornare, ma voglio dire, le persone che vanno da Ostia, che abitano a Ostia e che lavorano o studiano a Roma sono tantissime. Beh, ricordiamo che comunque stiamo parlando di 3 milioni di italiani stimati, di pendolari che si spostano su tutte le tratte italiane, quindi 3 milioni di italiani che tutti i giorni vincolano la loro presenza ai posti di lavoro, ai posti di studio, eccetera, dal prendere un treno e poi tornare. Ma da parte dei pendolari c'è ormai una sorta di rassegnazione a trovarsi su treni di quel tipo, oppure ogni mattina c'è la speranza in qualcosa di meglio? Però combattono, quando da anni ormai sono attivi i comitati, no? Anche il blog che lei ha creato, cioè, mi sembra che adesso c'è stata una traduzione artistica della cosa, cioè siccome non si può cambiare lo stato di cose è diventato un filone letterario, Andrea, quindi avete aperto un blog, tra un po' scriverete dei romanzi sul tema. È molto probabile, ma qualcuno bravo a scrivere, non me ovviamente, già qualche piccolo racconto lo fa. Quello che facciamo noi fondamentalmente è quello di raccontare prima su Twitter, che ovviamente essendo pochi caratteri si danno informazioni, si fanno piccoli racconti tra diciamo noi pendolari. Ovviamente devo dire la verità, in quest'ultimo anno pur avendo vinto, e vorrei ricordare che è il terzo anno di fila che vinciamo. Non è un bel onore, ecco, che viene quasi il dubbio che nessuno corregga lo stato di cose per lasciarvi il primato e per lasciarvi sul podio, cioè, sia... Sì, penso di sì, ma lì è anche complicato, perché come ho detto prima la gestione di ATAC, la proprietà è della Regione Lazio, per cui la gestione pratica di ATAC, ma in realtà è del comune, per cui regione, comune e ATAC dovrebbero mettersi d'accordo, e sono anni che non lo fanno mai, per cui la linea è lasciata molto Decadere. Sì. Allora facciamo così, Andrea, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, che vediamo se c'è qualche giusto ritardo appunto sulla Roma Lido. No, credo di no. E poi rientriamo anche, cari ascoltatori, se volete dirci al 349-238-6666, prendete una linea di una tratta ferroviaria, c'è qualche lamentela, insomma, volete segnalarci qualche disservizio. Eccoci qua, noi se siamo qualcuno pronti. Volesse contendere il primato alla Roma Lido, ecco, dopo 3 anni, no? Per cambiare la classifica. Obiettore di coscienza, ma altro che, lo fanno per i soldi. Come dice padre Weber, queste 230 strutture non applicheranno la legge? Galera subito! Allora, il tema è quello che abbiamo affrontato del testamento biologico. Ah, c'è una polemica! Mauro da Udine, attenzione! Mauro da Udine, che però scrive: sono di Roma e vogliamo girare ad Andrea Castano. Come possono essere fatti i lavori se su 100.000 passaggi 90.000 non pagano il biglietto? Quindi dei pendolari morosi. Non lo so, è una statistica che Mauro da Udine non credo che sappia così. Però Castano, com'è la questione qui? Voi, sì, adesso lei ci dice che paga regolarmente l'abbonamento, è tutto a posto ovviamente. Sì, assolutamente sì, è vero, ma adesso ovviamente non sappiamo le cifre, saranno, certo, non saranno 90.000, però se le stazioni sono completamente vuote, quasi completamente, adesso è chiaro che poi ci si va a romanzare molto, ci sono 2-3 grandi stazioni dove ovviamente non c'è problema, per esempio di ieri la notizia che un controllore è stato preso a testate a Ostia. Stavo leggendo, per una pausa sigaretta gli è stata rivolta una domanda per sapere insomma se quando sarebbe partito l'autobus, e se la risposta è stata una capocciata poi dopo che l'autista insomma... Sì. E questo è un altro problema, guardi, abbiamo affrontato avevamo avuto dei controllori aggrediti e questa è un'altra situazione davvero da rotaia, da incubo, cioè i passeggeri che salgono non pagano il biglietto, gli viene chiesto, aggrediscono persone che sono solo lì a lavorare. Assolutamente sì, e questo anche, se mi permettete, quello che cerchiamo di fare, noi raccontiamo, cerchiamo di sdrammatizzare molto il nostro disagio, perché ovviamente molte persone possono fomentarsi, adesso non sto parlando del caso particolare, mi riferisco per esempio all'estate di 2 anni fa dove arrivarono alcuni pendolari a tirare dei sassi contro i treni in movimento, fermi alla stazione per cercare di colpire i macchinisti. Cioè, da chiedersi se l'Italia vera è questa o quella dei Frecciarossa, è più questa probabilmente l'Italia vera. Numericamente vero, sì. Cioè, più che altro è l'Italia quotidiana, quella che, voglio dire, Frecciarossa tutti lo prendiamo ed è molto comodo, è stata una grandissima innovazione, perché andare, non so, da Milano a Roma mi capita in 2 ore e 58, è stupendo, supera di gran lunga la comodità dell'aereo. Però effettivamente l'Italia poi si sposta quotidianamente, magari per spostamenti di mezz'ora, non regionali, interregionali, che fanno questi guarda viaggi qui della per speranza. Esempio la linea Milano Porta Garibaldi Mortara, ci scrive Fabio da Mortara, si contende il primato con la Roma Lido, non so se Andrea Castano conosce, non può testimoniare la Milano Mortara, però è una bella cittadina Mortara, tra l'altro. Stavo dando un occhio al profilo Il Treno Roma Lido, uno dopo si mette a piangere al vostro profilo Twitter, vedevo anche il sondaggio, ti è mai capitato di fare un tweet dove ti sfoghi contro Atax? E sì, cosa provi dopo? 31% niente, sto come prima, 12% mi sento molto meglio, 14% meglio Atax che il vicino, 43% odio Atax e info Atax. Comunque, questa è la pagina... Questo è il servizio informazioni di Atax. Comunque, Andrea Castano, noi la ringraziamo. Devo dire che c'è un messaggio questo, io spero, non lo so se è vero. Linea Varese-Gallarate-Milano, servizio migliorato, lo faccio leggere a maniera questo. Ma questo è il codice che mi è stato inviato ieri per recuperare la mia password, Domenico. Il codice è STRNZ. Giuro. Se qualcuno, mancano delle vocali, bisogna unire, basta mettere qualche vocale a casaccio. Spero che non sia vero, dalla Milano Gallarate. Però, c'era un gruppo comico che si chiamava I Pendolari dell'Essere, e secondo me chi fa il pendolare diventa un po' così, no? Attraverso il suo pendolarismo cambia anche il proprio modo di essere. Potresti scriversi un giorno un pezzo sui pendolari, ma forse una volta l'avevi anche detto qualcosa. Comunque ci sono tanti ascoltatori ascoltatori, mamma mia che bello. Elena dalla provincia di Alessandria, dai che così ci stiamo tutti, eh. Alessandria, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Relativamente all'argomento precedente, mm-hmm, dell'adozione internazionale, sì, non, volevo portare una mia opinione in merito alla mia esperienza personale di affido nazionale, non internazionale, dove la ragazza, che ora è cresciuta perché insomma ormai sono passati, sì, 18 anni, ha voluto assolutamente non solo conoscere la famiglia d'origine, che mi sembra dovuto a questi ragazzi, perché loro vogliono conoscerne le origini per capire esattamente la loro storia. Perché però loro c'è storia una persona, certo, però c'è una persona nel caso di madri che abbandonano, no, che ha abbandonato, e in questo caso, sì, magari quella madre non vuole che qualcuno gli bussi alla porta. Non lo so, io mi interrogo, ecco, non ho una risposta. Sì, sì, no. No, io non volevo dare una risposta, volevo dare solo la mia esperienza personale, che anche la mia è stata abbandonata da sua madre. Sua madre però, con delle difficoltà mentali, la rivedeva con delle cadenze mensili molto lontane, anche con orari molto ravvicinati. Però lei aveva questa curiosità di capire la sua storia, perché credo che ogni bambino voglia capire la sua storia, anche se consapevole di essere abbandonato, credo che sia importante capirla, perché ognuno di noi, cioè credo che noi vissuti in famiglie, io lo definisco normale, anche se la normalità, ma certo, non esiste, sono abbiamo una storia ben definita e ben lineare. No, ma Elena, è chiarissimo, questa è la sua opinione. Poi ci vuole un grado di consapevolezza anche da parte del bambino, insomma, non da poco, no? Per affrontare magari anche storie difficili. Eh sì, lo si fa quando insomma, sopra i 25 anni. Chissà se i genitori adottivi si sentono minacciati da una legge come questa. Questo era, ma alcuni scrivono così, altri, per esempio Giuseppe da Bologna, leggo dalla redazione, mi dicono che sia un padre adottivo, ed è così. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno, piacere di sentirvi. Piacere nostro. Salve. C'è un cane che la vuole sbranare, però insomma, no, non sembra uno di grande vicino, taglia. No, è solo un cane qua vicino. Anche a Baia, poi quella lì la storia. No, volevo solo spiegare la mia esperienza e come ci siamo comportati. No, però noi, risponde a quello che dice Veronica, si sente minacciato dall'idea, no, di... Assolutamente no. No. Ma secondo me, per come ci si dovrebbe, dico dovrebbe, perché ognuno poi è libero di fare quello che vuole, comportarsi in queste occasioni. Noi abbiamo adottato una bambina in Perù 24 anni fa, abbiamo avuto la fortuna di averla molto piccola, perché era appena nata sostanzialmente, un mese ma di età. Niente, fin dal primo momento noi abbiamo creato praticamente un diario, sia scritto che fotografico, di tutta la sua storia, da quando è nata fino alla maggiore età. E lei vuole riscoprire le radici? No, proprio ha già scoperto tutto. Scoperto non è la parola giusta. No, ritrovato, ricercato. Noi abbiamo tenuto tutto quanto alla documentazione, anche i suoi documenti di nascita, quindi chi era la madre, il nome vero della madre, come è stato fatto il certificato di cambiamento nome, insomma tutta la sua storia fino all'età maggiorenne. Lei se l'è guardata tutta, dopodiché per curiosità più che altro è andata in internet, è andata a cercare il nome di questa donna, l'ha trovato, si è collegata con internet a lei, e dopodiché è arrivata perfino ad andare in Perù a trovarle, a parlarle. Beh, insomma, quando c'è tutto ce n'è tornato. Chiaro, quando e c'è questa esperienza le ha fatto, è stata benefica o ha creato qualcosa di diverso nei vostri rapporti? No, niente, non è cambiato assolutamente nulla, semplicemente secondo me il segreto è non nascondere niente. Questo di base ai figli è una regola validissima. Grazie Giuseppe. C'è un'altra testimonianza, Emilia dalla provincia di Napoli, buongiorno. Salve, buongiorno. Io vi ringrazio di toccare un argomento così importante, vorrei soltanto puntualizzare un paio di cose. Intanto io faccio parte del Comitato Nazionale per il diritto alle origini biologiche, che è quello che ha voluto fortemente questa legge. Ecco, come risponde alle critiche di chi dice forse c'è una madre che non vuole essere più ricercata? Allora, io rispondo in questo modo. La madre, intanto nessuno va a bussare alla porta. Sì. C'è il cellulare che va e viene, la sentiamo un po' così. Adesso la sentiamo meglio, provi a star ferma un attimo. Nessuno andrà a bussare mai alla porta di una persona, perché la legge prevede che ci sia un interpello regolare, sì, un interpello fatto da persone professionali e specializzate per questo, assistenti sociali, psicologi, sì, certo, non si va a bussare alla mamma dicendo sono tua figlia, insomma è una cosa più anche a sorpresa magari delicata. Contatta molto riservatamente e le si chiede se è disponibile a ritirare l'anonimato. L'ultima parola spetta sempre alla madre. La madre può dire di no, però noi abbiamo dato a una donna un'altra possibilità, a una donna che magari ha fatto questa scelta 40 anni fa, 50 anni fa, di in condizioni di vita miserabili, condizioni di vita difficili, costumi morali completamente diversi da quelli di oggi, e magari per tutta la vita già ci ha ripensato. Già cercava quel figlio, ma non sapeva come trovarlo. Nei primi ritrovamenti che ci sono stati si è dimostrato proprio questo, che le mamme il più delle volte stavano cercando questo. No, ma guardi Emilia, messa così un pochino mi ha già convinto, ecco, mi ha tolto un po' di dubbi che avevo. Credo che l'unico scrupolo che può restare è quello che si possa riaprire una ferita anche in persone, sì, che magari hanno deciso di chiudere con un capitolo, che però, si ritrovano, esatto, nuovamente messe di fronte però a dice la donna può rifiutarsi, sì, l'ultima parola. Non è come cioè, nei mamma, film però, che ti arriva, sì, di colpo il figlio, sono tuo figlio. Non è così. Teoricamente non dovrebbe. Brava Veronica, oggi mi sei proprio piaciuta. Brava, brava. Ciao Nico da Brescia. Ciao ciao. Ciao Funamboli. Domanda per la polemica sterile, ma non so se nasce come polemica o meno. Ma la storia che devono trasportare la barca dei migranti come monumento e che pagheranno 500.000 euro per fare questo trasporto è vera? Perché se è vera... È vera, ne abbiamo anche parlato, caro ascoltatore. Ancora non si sa però, eh? E perché poi dovrebbe essere costo... un emendamento alla finanziaria, bisogna capire se passerà. Ha detto che sarà molto meno di 500.000 euro, dicono. Quindi sarà qualcosa in più alla fine, probabilmente. No, il solito polemico maniera. No, è vera la notizia, sì, esatto, è un emendamento alla finanziaria, quindi siamo appesi a fine anno all'approvazione definitiva della finanziaria come ultimo atto del Parlamento, forse anche della legislatura. A questo punto qualcuno dice potrebbero chiudere così, no? Sì, con una polemicuccia, perché sicuramente questo trasporto, una polemicuccina proprio, sì, diciamo che ripeto, poi 500.000 euro quello che sarà è nel mare magnum della spesa pubblica dello Stato, no, non è che qualche bruscolino proprio, però no, è chiaro che uno dice si chiede se ci può essere un modo migliore di spenderli, magari più, sì, interessante che l'ascoltatore, che brava Veronica, brava però su cosa non si capisce. Brava. Non è stato chiarito. Va bene, dai, adesso abbiamo... Ma scusate, un attimo, sì, di lutto per Spelacchio non si fa? Ah, sta storia di Spelacchio. Hanno a Roma, ammazzato veramente. Spelacchio. Spelacchio è vivo. Ecco. Allora... Spelacchio. L'altro giorno ho seguito con passione, sì, tutta la spiegazione, guarda, Luca Teresi, Oscar Giannino, della magnifica comunità della Val di Fiemme che ha dato, sì, questo abete. Abete che Spelacchio rinominato, che sta gemendo ormai. È stato, perché devo dire che su questo i romani sono stati notevoli. Hanno trovato il sistema, capito, per esorcizzare il fatto che avessero l'alberello un po' sfigato e l'hanno chiamato Spelacchio. E quindi è diventato un personaggio. E adesso questa morte è un po' un lutto cittadino. Allora, e quindi adesso c'è gente contrita. È stato dichiarato morto. Dichiarato purtroppo morto. La morte effettiva di Spelacchio è stata arrivata, ormai riconosciuta dalle autorità. È allora, così è andata. Una ascoltatore che ci scrive dall'estero, deduco dallo 0066, anche i podcast pieni di pubblicità è stato bello e ci abbandona così. No, caro ascoltatore, e se no, visto che facciamo servizio pubblico anche noi, dateci il canone della RAI, anche una parte, no, del canone della RAI, e magari mettiamo un po' meno pubblicità. D'altronde la pubblicità ci permette di sopravvivere e pagare l'auto, i compensi a Leonardo Manera. Quindi, questo è vero. Infatti, tra l'altro dicono che non c'è la pubblicità. E perché dice? Lorenzo Lespo dice nel podcast non c'è pubblicità. E perché ci sarà una pubblicità prima? Avrà un virus, sarà andato a vedere dei siti porno e si è riempito di virus, di pubblicità pornografiche, di siti porno. Comunque, insomma, per pagare il contrattone di Leonardo Manera abbiamo bisogno di un pochino di denari, pubblicità copiose, no? Sì. Allora, vogliamo salutare un prossimo funambolo. È uno studente di ingegneria Università Roma 3 che insieme a un compagno, Jacopo Diavanti, ha vinto un concorso universitario. Lui si chiama Daniele Cerioni, è con noi. Buongiorno Daniele, grazie di essere qui. Ciao. Allora, campionato universitario makers, cioè i costruttori, coloro che fanno, perché avete inventori. Precisamente inventori. Inventori, giustamente, la parola è precisa, e perché non utilizzarla? Avete individuato un sistema per la casa domotica, quindi la casa intelligente, in pratica per razionalizzare con un maggiordomo virtuale interattivo i consumi domestici. È bellissimo. L'aspetto del maggiordomo virtuale che mi ha subito intrigata ieri. Voglio capire se posso beneficiarne io. Sì, perché è un impianto relativamente semplice che si può installare in quasi tutte le case. Tramite questo impianto noi da remoto possiamo controllare riscaldamenti, illuminazione, lo scaldabagno, il condizionatore, gli avvolgibili, pure le temperature, l'umidità dentro casa, anche il consumatore, il tutto da remoto. Ma che differenza c'è rispetto alla domotica che era in uso fino ad ora in pratica? Allora, il concorso ci chiedeva, la traccia era casa domotica, da invertirla, da aggiungere qualcosa di nuovo. Noi abbiamo aggiunto una particolare interazione con l'utente tramite dei comandi vocali, che quando da remoto tu lo utilizzi ti risponde proprio con un feedback vocale, anche su quanto l'hai tenuto acceso o se hai acceso troppe cose, stai consumando troppo. Interessante, no, perché voglio dire, la cosa che mi ha colpito è che voi avete detto, quando abbiamo avuto questo compito, diciamo così, questa sfida, dovevamo capire che cosa inventare di innovativo, di nuovo, che non ci fosse già. Ecco, facci capire dove sta, appunto, come diceva anche Leonardo, la qualità in più che avete messo. Già il comando vocale credo che incida anche su quello, il maggiordomo virtuale. La risposta, diceva lui, vocale, cioè lui ti conferma la domotica che questa cosa ti ha accettato o meno, in che termini, giusto? E non c'era, non c'era ancora. No, non c'era ancora, però è una risposta vocale che ti aiuta. Per esempio, se noi dal prototipo che abbiamo fatto noi accendevamo contemporaneamente riscaldamenti, illuminazione e scaldabagno, lui all'istante ti segnalava: attenzione, hai acceso tante cose insieme, stai consumando troppo, sei sicuro? Interagiva con te in questo modo. E adesso? Adesso è rimasto ancora a prototipo, ci stiamo lavorando. Gli hanno dato stai 4 calmo, ore. Leonardo, stai calmo. Mamma mia, è ingegnere, sta studiando. Gli hanno dato 4 ore a fare questa cosa e adesso ha vinto. Calmati. Ma tra l'altro, la faccenda molto intrigante è che tu hai incontrato il tuo socio direttamente al concorso. Esattamente, io mi sono presentata all'eliminatoria dell'Università di Roma 3 da solo. Ci siamo incontrati davanti all'ascensore per cercare la stanza che non trovavamo nessuno dei due. Guardandovi con sospetto all'inizio, perché era un concorrente. Un avversario. Dicevo, E invece vi siete... Non a squadrare male, può essere un nemico. Questo è un nemico da tenere sotto controllo, invece ti sei fatto buono il nemico e avete inventato questa cosa, il maggiordomo. Sì. Questo all'invenzione giusta gliela distruggo. E invece, certo, e invece adesso lo avvicino allo studio e poi lo massacro. E invece anche due vantaggi molto importanti questo prototipo, perché abbiamo usato tutte piattaforme open source, praticamente piattaforme disponibili su internet liberamente, di libero accesso. Certo, quindi senza spendere i diritti, eccetera, ma in open source. E quindi... in stile Wikipedia, che prende e scrive le notizie, e che poi fino al 2017 c'era un eco bonus che prevedeva uno sgravo del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica, e quindi comprendeva anche tutti gli impianti per controllo remoto, quindi tutta la domotica. Vabbè, ma Daniele, speravo che incentivino questo prototipo venga sviluppato. In bocca al lupo, Daniele Cerioli, che dobbiamo dire? Gli abbiamo dato un nome, lo chiamiamo Carson. Esatto. Carson, abbiamo acceso la luce? Come si chiede così al maggiordomo, Il maggiordomo. Alfred, quello di Batman. Alfred. Quanto ci costa questo maggiordomo domotico? Allora, è un prototipo. Sì, ipoteticamente. Vuol sapere già quando sarà il lancio sul mercato. Quanti mercati aggredirete? Siete già in Germania. La domotica è già costosa. Voglio sapere se me la posso permettere. Allora, Cerioni, o no. C'è una risposta per Manera. Quanto costerà tutto ciò a Manera? Contando con impianto domotico classico. per una casa di 70 metri quadri costa all'incirca 5.000 euro, questo costerà meno della metà. Vedi che ti è soddisfatto in questa. Quindi, bravo Daniele Cerioni, bravo, porta i complimenti anche a Jacopo Diamanti, ovviamente. Non solo un amico in casa, ormai Jacopo glieli possiamo fare i complimenti, non è più un nemico. Esatto, porta i complimenti anche a lui, vi ringraziamo ovviamente, ringraziamo te, ringraziamo voi e sentiamo il traffico, le informazioni sul traffico. Io vorrei vivere in uno stato, anzi voglio vivere in uno stato con regole precise e soprattutto che vengono seguite da tutti. Veronica, ti prego, civilizza questo Milan. Eccoci qua, è una mission. Allora. Le regole, vuole vivere in uno stato con regole sicure, sì, tutto rispettato. È una polemica sterile. Non solo per l'Italia, per tutti i paesi del mondo. Secondo me alludeva alla prima questione, quella del testamento biologico. Sì, penso di sì, non lo so. Poi non ha specificato bene. Cara Veronica, devo dire che c'è anche questa polemica. Giustamente, Spelacchi è morto, ma molti, soprattutto amanti delle piante, dicono che tutti gli abeti che vengono poi mostrati e messi in mostra città sono tutti morti, perché vengono tagliati, vengono messi lì senza le radici e quindi prima o poi moriranno, e quindi la polemica sugli alberi di Natale. Allora, vogliamo dire, dire è prematuramente scomparso. È prematuramente, sì, forse. Rettifichiamo, c'è una scomparsa prematura, visto che non ha neanche mangiato il panettone. Così come è corretto, è soliti dire. È un po' come Montella, non è arrivato al panettone. Doveva arrivarci all'Epifania, poi da lì poteva tranquillamente spegnersi di morte naturale. E invece è arrivato a noi a trovarci il professor Jansen. Buongiorno. Anche albero di Natale deve stare bene almeno fino a Capodanno. Salve professore, c'era così bisogno di lei prima di Natale. Infatti voglio dare consigli a tutte le persone, cara Veronica. Grazie. Per stare bene in questo periodo così importante dell'anno. Sì. Metodo per stare bene io ho inventato, no? Perché ecco, è inutile andare anni da psicologo per capire la causa dei tuoi problemi, quando invece di capire la causa è importante risolvere i problemi anche senza capire causa. Mi spiego meglio. Ad esempio, se io uomo ho problemi a fare amore con femmine, è inutile che mi ostino a cercare di capire qual è causa dei miei problemi. È meglio che io direttamente provo soluzioni per stare bene, per disinibirmi con le femmine. E allora prima di fare amore provo a bere 5 o 6 bicchieri di vino per disinibirmi, mezza bottiglia, un po' di whisky, amaro, ferne branca, tutte cose che ti possono disinibire per capire se il mio problema è psicologico oppure c'è qualcosa di più significativo dal punto di vista medico. Ecco, quando io sono completamente ubriaco ancora non riesco a fare amore bene con femmine, allora poi magari vado anche da medico, ma prima mi devo disinibire. E questo è modo. Ubriacare, diciamo anche ubriacare. Anzi, approfitto dell'occasione per ringraziare la cantina che mi ha mandato a casa due scatoloni di bottiglie di vino omaggio. No, dai, adesso. Vabbè. Vino che io continuo a consigliare a tutti i miei pazienti di quella cantina, ecco, per risolvere i loro traumi psicologici. Altra cosa che nella vita quotidiana causa problemi è le gelosie sul lavoro, perché magari davanti a te in ufficio c'è un collega fastidioso, pesante, arrogante, presuntuoso, che meriterebbe una manica de botte, e invece viene trattato meglio di te, non lo merita, anche se merita questa manica di botte. Allora prenditi le tue piccole rivincite per stare bene. Arriva un po' prima sul posto di lavoro e riempi la scrivania di gel per capelli. Occupa il posto su auto aziendale facendolo vagare per ore alla ricerca di un parcheggio. Denigralo sul posto del lavoro. No, questo mai. Dicendo cose false su di lui. Cominciando a diffondere il venticello della calunnia. Prenditi tue soddisfazioni, e se proprio tutto questo non basta darti soddisfazione, una volta ogni tanto litiga, dagli un pugno sul copino. Sul copino. Ma perché sul copino? Un pugno sul copino. Uno schiaffo, perché la violenza fisica a volte è l'unica soluzione per stare bene. Professore. Quando hai vicino dell'ufficio fastidioso, e vedrai che anche in ufficio le cose andranno meglio e tutti ti apprezzano. E ultima cosa di cui voglio parlare sono problemi con i figli. Sì. Perché aver figli è una cosa che dà soddisfazione, è meravigliosa, ma è anche una gran rottura di palle, diciamolo, aver dei figli. Diciamo, questo diciamo. E diciamo. Diciamolo sì. Due volte, professore. Sì, sì, sì. E allora questi figli, mandiamoli fuori casa presto, quando hanno 5, 6, 7 anni, che è età giusta per andare a vivere da soli. 5 anni. A essere indipendenti. Li mandate a fare qualche lavoretto, così se guadagnano anche qualche soldo per comprarsi i giochi, no, per i videogiochi. Anche quando vostra moglie lavora, lei è fuori, bambino fuori, avete tempo per portarvi a casa qualche dona a pagamento. Perché il modo migliore per fare andare avanti il matrimonio è ricorrere anche a dona a pagamento o a gigolò se siete femmine. Però prendendo tutte le precauzioni, cioè andando a prelevare prima del rapporto, perché prostituta non accetta il bancomat, ecco, diciamolo queste cose. Dovete avere soldi in contanti, denaro frusciante, per il piacere di pagare dopo un rapporto sessuale, che è la cosa anche che dà piacere, no, diciamo, nel rapporto sessuale. Pagare femmine, pagare gigolò e prostitute. Ecco, questi sono i miei piccoli consigli per stare bene a Natale. Insomma, sentimenti, ma il sentimento non fa stare. Carezze ai colleghi. No, bisogna pagare per fare amore, mandare fuori i bambini e dare pugni sui copini, schiaffi sul copino a collega di ufficio. Va bene. E vedrete che vostra vita cambierà. Sul copino, eh? Va bene. Ho bisogno almeno di un motivo che mi faccia stare bene. Sono stufo dei drammi in tele, delle lamentele, delle star in depre. Allora, sei ispirato al nuovo Caparezza. Ogni volta che la sento in radio penso al prof. Sì, esatto. Va bene, vogliamo chiudere con Gino dalla provincia di Lodi, che ringraziamo, è lì da un po' di tempo, credo, sul tema del testamento biologico. Gino, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. A tutti e buongiorno anche a te, agli altri spettatori. No, agli solo... autospettatori. No, agli autospettatori, sì. Vabbè. No, io volevo solo dire una cosa. Io sono cattolico, mi professo cattolico, sono cattolico. Volevo dire che padre Bebel, cioè, è stato coerentissimo. Con la sua etica, se... con la sua etica. Non con una legge dello Stato italiano, però. Lo so, però io non mi aspettavo altro da cattolico, dico, da cattolico io non mi sarei aspettato altro. E infatti molti cattolici la pensano perché, come lei. So. Cioè, a prescindere dalla legge dello Stato italiano, che ovviamente c'è e va rispettata come legge. Questo è un po' in contraddizione, visto che non la rispetterà. Padre Bebel ha detto non la rispetterò. E questo è il punto, quindi lei dice... Però è una struttura, è una, si professa struttura cattolica come accreditata al Servizio Sanitario Nazionale. Allora dire che io sono coerenti fino in fondo, lo Stato decide di togliergli l'accreditamento al Servizio Sanitario Nazionale, ne prenderò atto, accetteremo anche questo. Cioè io parlo, cioè il cattolico deve essere coerente, non può andare a prendere dagli scaffali quello che gli piace e quello che non gli piace lasciarlo lì. Va bene, Gino, certo. Non so, siamo su posizioni divergenti, ma questo è il bello dei funamboli, Veronica, è il bello dei funamboli, o no? È il bello dei funamboli. Chiaro. Tenersi allora in piedi senza mai cadere. Esatto. E allora con Caparezza vi lasciamo, l'appuntamento è rinnovato domani alle 9, siamo questa settimana ancora in diretta, poi sarà il meglio di... Tra una settimana è già passato Natale. Diamo supporto prenatalizio e poi tra qualche giorno sarà tutto passato, tranquilli. In maniera, cioè, perché l'amore, Leonardo, è destinato a finire sempre e comunque. Leo, ma fino a Natale durerà. Il Natale ti piace a te, Leo? Ma a domani. È così. È così. Protestate pure, ma è così.